Thank you. Raccogliate voi. incocciar, abbandonar vivo per me la vita. Di paci tuttavia, splende il castello, a scarsa fu la notte al tripudio. Ingrata donna, tu mentr'io mi struggo in disperato pianto, tu ridi e esulti accanto al felice consorte. Tutte le gioie in seno, tutte le gioie in seno, io Oh, bell'alma innamorata,